Correrán a mi puta guarda, pirita mata a serie, entrego yo si le se mate. Situación incómoda, y por ser mucha de por el gran chica, por ser coger peligro, mi grupo está sonando, yo solo vi que peso, que ni se choque en todo, por más no la vi un sexo. Qual è la cosa giusta, io sei che mi conviene, che mi si è fermato sulla mia decisione, e forse solo l'alcol che scalda questo cuore, non lo so perché, non lo so perché, sanno che sempre l'altra, non lo so perché, non riesco a respirare, non lo so perché, mi fermo a guardare solo te, mi fermo a guardare solo te. Teoricamente noi dovremmo ancora fare un paio di pezzi, però noi siamo vecchi e a Pinerolo ci sono tanti bei giovani ragazzi che sono ancora in piena forma, che se si muovono mi fanno un favore, ok? Abbiamo suonato con loro al nostro ultimo concerto d'ottobre, suoniamo molto spesso infatti. E... sei sicuri? Visto che noi vogliamo bene... Facciamo alle... ancora una canzone. Facciamo le ultime due. Se le facciamo in 30 secondi. Ok, scusate, ma sono dei ragazzi indecisi. Quindi loro sono gli stronzi, sono di Pinerolo. Io gli lascio il microfono e poi vado a riposarmi e torniamo tra un po'. Fatevi pure un attimo i cazzi vostri, perché noi dobbiamo provare un attimo, che è da st'inverno che non proviamo, quindi... c'è un alto tasso di alcol in questi individui, quindi abbiate pazienza. Mm-hmm.